Figlia degli elementi, pagina 16. È stato un giorno fantastico, Aldo, una specie di vacanza, ma devo tornare. Il rimpianto nella sua voce era inequivocabile e Rain capì che anche lui aveva avvertito. Tornare dove? Che domanda innocente e apparentemente casuale. Mentre gliela rivolgeva, Aldo non la guardò, ma continuò a mangiare. Aveva denti perfetti e i suoi capelli biondi luccicavano al sole. Rain immaginò di accarezzarli. Erano ruvidi come le sue mani o delicati come i suoi occhi. A Seattle, rispose semplicemente. Era una città enorme. Sarebbe stato difficile incontrarsi di nuovo. Magnifico, esclamò lui. Ci abito anch'io. Possiamo tornare a casa insieme. Fuggire per un giorno era comprensibile. Rain lo aveva già fatto negli anni passati, ma aveva imparato che non era saggio permettere che un'esperienza simile si prolungasse troppo. Scosse la testa con tanta decisione che il nastro che le legava i capelli si allentò. Aldo lo prese con una mano e mentre l'aiutava a fissarlo, la costrinse con delicatezza a voltarsi verso di lui. Le labbra di Rain tremarono, ma non provò alcun timore perché la sua tenerezza era troppo evidente. Ma fu evidente anche la reazione che quel contatto aveva determinato nel suo corpo. Quell'incontro si stava trasformando da fortuito a intimo, troppo rapidamente, e il suo cuore si mise a battere all'impazzata per l'emozione. Allora sei sposata, mormorò lui, obbligandola a incontrare il suo sguardo. Le loro bocche erano pericolosamente vicini. Rain scosse la testa. No, non ancora, balbettò. Ci sposeremo presto, alla fine di agosto. To be continued.